È Alessandro Milan, bellezza, e tu non puoi farci niente, niente. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 9:07, siamo pronti per una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo in diretta fino alle 11 assieme a voi, qui dagli studi di Radio 24 a Milano. Sì, Milano, diciamolo orgogliosamente, Milan, sembra dire adesso Milano, sembra dire la peste, invece no, siamo a Milano. Con l'Alpino in regia, con la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e chissà se Elisabetta Fusconi è tornata dalla Svizzera, magari l'hanno fermata alla frontiera, io non la vedo e non vedo neanche Leonardo Lentopede Manera, ma a quest'ora è abbastanza normale, sarà in vestagliona tutto accapigliato che si sta scapicolando qui, non lo so se viene qui peraltro, abbiamo notizie, di non sappiamo tante cose della nostra trasmissione, per esempio oggi chiudiamo alle 10:45 alle 11, questa è la prima sfida Lucchetti che pregasi confermare, sfida Lucchetti, non lo sappiamo, lo sapremo nel corso della programmazione. Intanto 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi, WhatsApp, SMS, eccetera, mentre 800-24-0024, questo è il numero per chiamarci. Non parleremo, viva Dio, solo di coronavirus, ci sono anche altri temi da affrontare, intanto però si parte. Enthusiasm about the future. Eccolo qua, per cortesia, ci dice come funzionano i rimborsi dei biglietti aerei per i viaggi quando i paesi di destino come Repubblica Dominicana o Argentina mettono restrizioni? Sfida Lucchetti, non lo so, non è il programma in cui rispondiamo o trattiamo generalmente questo tipo di problematiche, però arrivano anche queste domande. Tra l'altro non c'è ironia, sapete che io ironizzo spesso sulla settimana decisiva per quel che riguarda la politica, non so a che settimana decisiva siamo per l'abolizione delle province, per la riforma elettorale, quella vabbè è cambiata. Però pare che siamo davvero alla settimana decisiva, così dicono tutti gli infettivologi, per capire se tutte le misure che sono state prese fino adesso siano state efficaci nel riuscire a contenere, limitare un po' la diffusione del virus. Staremo a vedere. Intanto invito anch'io, come fanno tutti i medici, a rispettare la parola chiave droplet, no? Goccioline, cioè rispettare un metro di distanza. Io lo faccio pur prendendo i mezzi pubblici come oggi la metropolitana, tanto non è molto affollata, rispettare la distanza di un metro. L'alpino mi guarda, ma c'è un vetro divisore tra noi, quindi in questo caso puoi anche sputacchiare sul vetro che non succede nulla, ma lì in regia sarebbero dei problemi. Un metro di distanza tra le persone. Prima però voglio parlare di quello che è successo a Napoli, abbiamo sentito anche da Simone Spezia e Maria Latella, perché quello che è successo a Napoli è una rapina finita in tragedia. Una rapina con una pistola finta di un sedicenne, Ugo Russo, che Vincenzo Russo, Ugo, il padre Vincenzo Russo, Ugo Russo ha tentato una rapina, ha tentato di rapinare di un Rolex un carabiniere che non era in servizio. Il carabiniere ha tirato fuori la pistola, questa volta vera ovviamente, la pistola d'ordinanza, e lo ha freddato con due colpi. Cosa è successo poi? Che alcuni ragazzi del quartiere di Ugo Russo sono partiti in una sorta di spedizione e sono andati al pronto soccorso dell'ospedale, devastandolo letteralmente, pronto soccorso dove i medici peraltro erano lì nel tentativo disperato di salvargli la vita. Che dire, cominciamo dal padre, il padre di Ugo a Sky. Solo questo, noi vogliamo solo giustizia. Mio figlio è stato sparato un proiettile al petto centrale e il secondo proiettile è stato sparato dietro la testa. Penso che qualsiasi cosa abbia fatto mio figlio, a figlio me l'ha inciso. Stop, ma qualsiasi cosa ha fatto figlio, io non lo so, vi ripeto, ma tu non dire diritti di uccidere una persona. Ecco, questa frase, non c'è il diritto di uccidere una persona, per carità, il diritto no, ma voglio dire, con tutto il rispetto per un padre che ha perso il figlio, ma se uno fa una rapina con una pistola che sembra vera, è chiaro che un minimo rischio, se non un grande rischio di finire ammazzato, c'è. Ho letto anche su Repubblica che dice ha fatto una stupidaggine, e vabbè, sorvoliamo sulla questione stupidaggine, rapina uguale stupidaggine. E poi dice sì, siamo una brava famiglia, sì è vero, io ho avuto problemi di tossicodipendenza ma ho chiuso i conti con la giustizia nel 2004, siamo una brava famiglia, sì è vero, il mio primo figlio era un po' una testa calda ma ora lavora. Maurizio De Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Scrittore, buongiorno. Intellettuale napoletano, insomma, ricordo solo il commissario Ricciardi come creazione, una delle tante di Maurizio De Giovanni. Qui ci potrebbero essere da fare tante considerazioni. Intanto, che cosa la disturba di tutta questa vicenda di più? Le parole del padre, la devastazione dell'ospedale? Che considerazioni fa lei, De Giovanni? Guardi, non c'è, io credo, nulla in questa faccenda che non disturbi. Non c'è nulla che non dia fastidio, che non sia destabilizzante, che non colpisca, deluda e soprattutto spinga certe considerazioni. Sarebbe molto facile cavalcare l'onda dello sdegno e dire un rapinatore, la devastazione del pronto soccorso, i colpi di rivoltella sparati contro la caserma Vastrengo. È vero, di notte, dove c'era il carabiniere, erano andati i familiari, alcuni familiari del ragazzo, perché erano due a scoprire questa rapina, del ragazzo che era scappato, quello che era scampato, diciamo, alla reazione del carabiniere. Io ho delle considerazioni di breve e delle considerazioni di medio termine. Le considerazioni di breve termine sono che chi ha un'arma la usa, ed è una cosa ricorrente. Io credo che dovremmo ricordarcene quando poi facciamo dei discorsi sulla legittima difesa o comunque sulla delega dell'amministrazione della giustizia da parte dello Stato ai privati. Questo è un atto di gravissima inciviltà. Una rapina è una rapina, va punita, va perseguita, vanno trovati e messi in galera, senza se e senza ma, subito. Sì. I rappresentanti di una cosa del genere, cioè chi si rende responsabile di una cosa del genere. Resta il fatto che avere una pistola con sé ti spinge a usarla. Sì, in quel caso succede. Poi il carabiniere la sa usare, evidentemente. Sì, ma questo succede a tutti: carabinieri, guardie giurate, poliziotti in pensione, cacciatori, chiunque abbia un'arma in certe condizioni di stress estremo finisce per usarla. E rimane il fatto che a terra rimane questo ragazzo di 16 anni. So che un tema che a lei è molto caro è questo, e c'è una risposta del padre. Che ragazzo era Ugo? Risponde: aveva lasciato la scuola dopo la terza media. Questa è la considerazione forte che va fatta sul medio termine. Allora, ci sono intere aree di questa città, che è la terza città del paese, la prima in molte occasioni per visite, per turismo, quindi non una città banale, non una città qualsiasi, un'area metropolitana con 3 milioni e mezzo di abitanti, la sola area metropolitana di Napoli, la più densamente popolata d'Europa, ha l'8% degli abitanti dell'intero paese. Intere aree di questa città non sono sotto il controllo dello Stato. Sì. Interi quartieri del centro di questa città, cioè, quindi non parlo delle periferie degradate o cose del genere, io parlo del centro di questa città. Ci sono intere aree dei quartieri del centro di questa città che non sono sotto il controllo dello Stato. Questa città ha il 34% di dispersione scolastica. Ecco, questo significa è il tema. Che un ragazzo su tre in questa città non va a scuola nell'età dell'obbligo, né nessuno la va a cercare. Nessuno la va a chiamare. E aggiungiamo a questo che non è che si buttano nel mercato del lavoro, che è molto florido a Napoli, esatto, e in generale, esatto, in Italia. Ma in generale asfittico. Quindi sono reclutati immediatamente da chi gli può dare, da chi gli può consentire dei guadagni facili e di immediato utilizzo. Allora, noi possiamo militarizzare le zone, cioè mettere l'esercito per strada, come in Kosovo. Come in Kurdistan, mettere l'esercito in strada per amministrare, per riguadagnare il controllo del territorio. ma è un'attività liberticida. Lo Stato non si può permettere. No, ma anche perché voglio dire, se poi non vanno a scuola e non vanno a lavorare, una terza strada, purtroppo alcuni la imbracciano. Certo che anche a livello culturale il fatto di colpire lo Stato, sia negli spari alla casa di una Pastrengo, ma sia, io dico, anche nell'assaltare il pronto soccorso, dire, dove c'erano dei medici che stavano cercando di salvare la vita. Questi sono atti di guerra, cioè, perché non cerchiamo di capire? Cioè, non possiamo rubricare la cosa con l'inciviltà relativa di un unico nucleo familiare. Questo è un atto di guerriglia, e questa è, quando c'è una guerriglia ci sono delle parti contrapposte. Ci sono delle parti contrapposte, cioè in una guerra ci sono delle parti contrapposte, ci sono dei segnali. Quando i ragazzini attaccarono la polizia nel borgo di Sant'Antonio, quando spensero i fuochi, sì, che avevano acceso per festeggiare, sì, sì, il santo, e ci fu la polizia, i vigili urbani che cercarono di impedire questa cosa e furono attaccati da un gruppo di ragazzi, attaccati fisicamente, sono atti di guerra in cui si interpreta che lo Stato è il nemico. Certo. Allora, se lo Stato è il nemico, io credo che lo Stato debba porsi il problema. Il modello educativo che lo Stato propone qual è? Cioè, io dico, sarebbe semplice per me adesso, facendo bella figura con la maggior parte degli ascoltatori, no, dire che si tratta di delinquenti che vanno cancellati, sì, che il povero guardi, ma infatti lei anticipa la mia ultima domanda, è proprio questa, perché moltissime persone dicono, ma quale problema? Ci siamo tolti un problema, un rapinatore in meno, un ragazzo di 16 anni morto è una cosa gravia, è una ferita per tutti, è una ferita per tutti. Sa, oltretutto io credo che questo ragazzo, il carabiniere, intendo, si sia sostanzialmente caricato di un peso che porterà tutta formale e sostanziale, formale e sostanziale, certo. Perché se tu di mestiere fai quello che difende la gente, avere l'idea di aver ucciso qualcuno è una cosa che ti porti dietro per tutta la vita. Certo. Io mi auguro che possa lui risolvere questo percorso, ma nella realtà dei fatti un ragazzo di 16 anni a terra è il figlio di tutti, cioè nessuno di noi può dire che è un delinquente in meno, no, sì, è un ragazzo perduto. È un ragazzo perduto, e questa è una cosa di una gravità estrema che deve far sanguinare una ferita sul cuore per tutte le persone, per tutti i genitori e per tutti coloro che hanno una minima sensibilità. Ma è così. Maurizio De Giovanni, io intanto la ringrazio, ripeto, scrittore napoletano, intellettuale, insomma, creatore del commissario Ricciardi, ma i bastardi di Pizzo Falcone, ma insomma lo conoscete, e anche voce della società civile napoletana, con cui ho voluto aprire, perché questa vicenda, e vi invito anche alle vostre considerazioni all'800 24 00 24, anche le più brutali, lo so, la maggior parte dicono proprio, tanto in un messaggio è semplice scriverlo, ci siamo tolti un rapinatore e un rapinatore in meno. Vabbè. Allora, ai tempi di coronavirus, allora io ho letto vari titoli, si riparte, si vuol ripartire, ne ho letto uno su un giornale, credo fosse di Lasciateci lavorare, ecco, questo è il titolo di apertura di Libero, Lasciateci lavorare, gli imprenditori, le zone produttive d'Italia dicono lasciateci lavorare. Oscar Farinetti, buongiorno, eccoci buongiorno, qui. Buongiorno. Allora, Oscar Farinetti lo conoscete, da fondatore di Italy, adesso c'è una nuova sfida che inizierà, Green Pea, adesso magari poi ci dice qualcosa, dall'agosto. Però intanto fateci lavorare o lasciateci lavorare, allora in tempi di coronavirus, ma noi dobbiamo pensare al PIL o alla salute pubblica, o meglio, il PIL può essere per un attimo messo da parte in nome di una sanità collettiva? Da imprenditore come la vede? Dobbiamo pensare come sempre a tutte e due, la sanità pubblica è la cosa principale, ma anche il PIL, cioè il fatto che ci sia un'economia vivace che garantisca i posti di lavoro, i salari e vita. Quindi le due cose vanno accompagnate insieme. Sul tema, su quella frase, lasciateci lavorare, secondo me non c'è nessuno che ci impedisce di lavorare, insomma. Sono state prese alcune misure, secondo me alcune anche giuste, e poi però è stato deciso da un sacco di aziende di non far venire più i lavoratori in azienda, a lavorare da casa, si poteva a eliminare tutte le trasferte, insomma c'è stata, diciamo, una reazione un po' esagerata anche da parte delle imprese. L'altro giorno ero sul treno, c'ero solo io sulla carrozza, non mandano più nessuno in giro, eliminati tutti gli eventi, ma addirittura annullati eventi di fine aprile, fine maggio, insomma è una mancanza totale di speranza e di fiducia anche da parte di chi organizza questi eventi. E quantomeno bisognerebbe ragionare settimana per settimana, iniziare a dire certo, arriviamo tutto. Bravissimi quelli del Vinitaly che l'hanno confermato fino a aprile, se noi lo confermiamo. E quindi si va avanti, insomma, va bene. È difficile, ma dobbiamo tenere duro anche noi. Che botta subiremo per l'economia? Cioè, abbiamo già un'idea di quello che succederà alla fine dei conti? Molto difficile averla sulle vendite all'interno dell'Italia, secondo me. Ci sarà un meno 10 più o meno in marzo che ci beccheremo, peccato perché gennaio e febbraio erano partiti molto bene quest'anno. Ma il grande problema è il vicino futuro sul turismo e sulle esportazioni dei nostri beni. Cioè, noi esportiamo per 430 miliardi di prodotti e abbiamo turisti internazionali di circa 50 milioni che spendono più o meno 3.000 euro a testa, 2-3 mila euro a testa, quindi una roba parente tra 100 e 150 miliardi. Se nel mondo non riusciamo ad arginare questa nuova visione dell'Italia, che è una grande novità, insomma, questa nuova visione dell'Italia, quindi portatrice di malanni, ecco, diventa un problema. Quindi dobbiamo reagire immediatamente e pesantemente su questo. Da un primo lato dobbiamo dimostrare la verità, e cioè che la nostra sanità pubblica ha reagito bene e che la nostra zelanza, chiamiamola così, l'essere così zelanti, è un plus e non è un punto di debolezza. Sì. E questa roba va raccontata. La seconda, dobbiamo incominciare a pensare, non appena l'emergenza sarà, diciamo, meno forte, a creare una task force di persone che vadano nel mondo a tranquillizzare i cittadini del mondo. Cioè, io mi immagino veramente che l'Italia debba reclutare da Bocelli a Valentino Rossi, dalla Cristoforetti alla Pellegrini, da Renzo Piano, insomma i grandi italiani, molto stimati nel mondo, che vadano a fare una serie di conferenze stampa a dire: ragazzi, tutto a posto, abbiamo risolto, l'Italia è di nuovo pronta ad aspettarvi, correte quest'estate, vi aspettiamo tutti, c'è Firenze, c'è Venezia, c'è Rimini, c'è Sicilia, c'è il Sud, meraviglioso. Ma perché lei ha capito Farinetti che un problema c'è stato evidentemente di comunicazione, no? Infatti ieri ho letto un'intervista al maestro Muti su Repubblica, no? Si comincia, magari, cioè abbiamo sbagliato, no? Visto che è un altro a reclutare, ma adesso bisogna smettere di pensare dove abbia sbagliato, insomma, certo che abbia sbagliato, si sbaglia sempre in questi casi. Non ho mai visto storicamente che di fronte ad una roba del genere ci sia mossi perfettamente dai tempi del Manzoni, ma direi anche prima, in avanti, cioè si va un po' in tilt e si commettono degli errori. Adesso ne prendiamo atto e recuperiamo. Cioè, il grande tema, insomma, noi abbiamo il paese più pulito al mondo, abbiamo il paese con i ristoranti più pulito, c'è solo l'Italia, che lo sporco entra da una parte, il pulito esce dall'altra, abbiamo delle leggi di nazionalità pazzesca, abbiamo il minor residuo chimico della terra, maggior numero di aziende biologiche, facciamo i prodotti più sani, più puliti al mondo. Questa cosa qua che stava riscuotendo successo straordinario nel mondo, con incrementi nelle esportazioni e nel turismo molto interessanti, porca miseria, con sto cavolo di virus, cioè non sono fermata, ma siamo il primo paese occidentale al centro del Mediterraneo che l'ha beccato. Ho capito, però gli altri mi sa che arriveranno, cioè, perché poi noi Italia stiamo scontando il fatto di essere stati i primi in Europa in maniera così massiccia, ma mi sa che gli altri arriveranno. Senta Farinetti, c'è tutto il tema che molti hanno lanciato a dire: vedi, da qui parte l'idea dello smart working come futuro, come nuova sfida, è un qualcosa che magari ci è stato imposto da questa emergenza, ma è un futuro lì alle porte che dobbiamo prendere in considerazione seriamente, cioè state a casa vostra e lavorate e lavorate così. È un futuro che non mi fa impazzire, questo è un futuro dell'isolamento di tutte le persone. Stiamo a casa nostra a lavorare, stiamo a casa nostra a fare gli acquisti, chiudiamo le città, chiudiamo le vie, tanto chi se ne frega, no? Giusto? Il problema è quando chiudono i teatri, chiudono i cinema, chiudono i musei e dopo eliminiamo il tema della convivialità, se eliminiamo i rapporti umani, se eliminiamo queste cose qua, eliminiamo proprio un modello di vita sulla quale il Sapiens si è basato negli ultimi millenni e che lo fa stare bene. Secondo me si entrerebbe in una cappa di tristezza straordinaria, no? Sì. Io non sono molto per per far lavorare a casa. Mi piacciono i luoghi di lavoro, mi piace lei che sia lì, che davanti al suo regista, ai suoi collaboratori, tra un po' arriverà anche il fenomeno, altrimenti ognuno di voi a casa davanti al muro bianco che parla con una con un sistema digitale fantastico che vi collega come forse presente. Si potrebbe fare, fare. Lo so che potreste, tecnicamente potreste tecnicamente farlo, ma sarebbe orribile, certo. Si perderebbe, secondo me alla fine ne patirebbe anche la sua trasmissione. Forse sì, vabbè, ma insomma in conclusione questo Green Pea che cos'è? Questo Green Pea è il primo department store al mondo, molto grande, 15.000 metri, dove ci venderanno solo oggetti costruiti in armonia con la terra, con l'acqua e con l'aria. Ecco, Greta Thunberg, Greta Thunberg, come sì. Greta Thunberg ha contagiato da Greta Thunberg, insomma. Greta Thunberg ha contagiato, secondo me, un modo di vedere il futuro del mondo per i giovani, e benvenuto il suo modo di averlo tirato fuori. Insomma, noi grandi siamo un po' così, finché i bambini non si mettono a piangere non ci rendiamo conto dei casini. Qui è un gran casino, cioè il 90% degli scienziati ci dice che se non cambiamo il nostro rapporto con la natura, il clima peggiorerà sempre di più, ci saranno eventi climatici tremendi e in un tempo ancora ben da definire, ma non così lontano, pregiudicheremo la vita umana su questo pianeta. Cioè, è la prima volta che si verifica un cambiamento climatico non dovuto ai moti naturali dell'universo, ma al nostro modo di vivere. E dobbiamo cambiare il modo di vivere, dobbiamo essere intelligenti sotto questo profilo. E siccome il nostro modello è la società di consumi, il nostro modo di vivere è consumare, per consumare si produce e per produrre abbiamo un po' esagerato creando delle situazioni di conflittualità tra i prodotti che produciamo e il benessere della natura. Bene, punto, bisogna tornare indietro. E quindi noi venderemo abiti, mobili, veicoli, perché nel food il cibo l'abbiamo già fatto con Italy, abbiamo solo prodotti naturali, costruiti bene. Adesso tocca al resto. Secondo me, se cambiamo un po' il nostro stile di consumo, facendolo diventare, come si dice oggi, consapevole, no, perché prima c'erano solo due robe che assicuravano la continuazione della specie, mangiare e fare l'amore. Poi si consumava per godersi la vita. Ora si è capito che dobbiamo anche cambiare il nostro modello di consumo per assicurare la continuazione della specie. E allora, sai, il payoff che ci siamo inventati è from duty to beauty, cioè dal senso del dovere al senso del piacere. Il comportarsi bene con la natura non deve essere solo un dovere, ma ci dobbiamo sentire un po' fighi a farlo, no? E quindi cercheremo di lanciare questa nuova postura psicofisica delle persone, che invitandoli a consumare prodotti di cui conosco bene l'origine, che l'energia è stata usata per farli, in tutto questo, Farinetti, nel salutarla e ringraziarla, guardi qua, è arrivato il fenomeno, sta facendo il suo ingresso in studio il fenomeno, che così facciamo salutare Oscar Farinetti al fenomeno, non lo sa neanche Leonardo, ti ha definito, tra poco arriva il fenomeno, così, eccolo qua. Lo è. Mi dispiace essere così denigrato. Ma no, che denigrato! Questa ironia sperzante. No, fenomeno è un oggettivo positivo. Certo, ma colgo un'ironia positivo sperzante in questa definizione, e non positiva sicuramente. Vabbè. La salutiamo, grazie Oscar Farinetti. Eccoci qua, eccolo qua. Tra un po' arriverà anche il fenomeno. Eccolo qua, si riferiva a Tetti e tra un po' arriverà il fenomeno. È arrivato. Siamo a distanza droplet, ormai lo dicono tutti, ne ho detto la classica banalità, che in tutti i luoghi di lavoro diranno, in tutte le radio del mondo, la voglio dire anch'io. Siamo a distanza droplet. Sai che la parola chiave è droplet? No, io avevo solo il motorino che si chiamava drop, ma droplet non so droplet, cosa. Goccioline, è la distanza di un metro, e cioè quando si parla si producono queste goccioline, bisogna stare a distanza droplet. Sì, ma mettiamo che vogliamo prima misurare di me più o meno era un metro forse. Questo un metro, dai, 1,20 m. Ma prima di me qui presumo ci fossero, visto adesso, Maria Latella. Maria Latella ha la tosse. E quindi stai parlando su una spugna. Cambia microfono, nel dubbio queste spugne sono dei ricettacoli. Ho sentito che aveva un po' di tosse Maria Latella, se poi è rimasta qualche gocciolina qui sulla spugna del microfono, qualche droplet, può essere che io venga latellato. Latellato, va bene. Come stai? Tutto bene, bene, bene, sì, grazie. Bene. Tra l'altro devo dire questa cosa, Leonardo Manera non lo vuole dire, ma un mesetto fa, se voi ricordate, Leonardo ha avuto un momento, una settimana, come dire, da casa, di febbre anche, febbre con difficoltà respiratorie e tosse. E congiuntivite. Quindi Leonardo Manera è convinto, mio fratello, è convinto di avere fatto mio fratello, il coronavirus. Sì, io sono convinto. In serenità. E mio fratello dice: è magari medico? Sei tu il paziente zero. Ah, non penso perché. Beh, no, questo lo dice lei. Questo lo dice lei. Tra l'altro, sì. Tuo fratello è medico. Sì. Quindi... Però non mi ha visitato. Non mi ha visitato al telefono, mi ha detto scherzando e ridendo: magari sei tu il paziente zero. Io vorrei invece farti sottoporre. No, vabbè, ti sottopongo una paginata di pubblicità. Che però lo facciamo tra un attimo. Dopo la pubblicità. Io sono dopo la pubblicità della radio. Ti sottopongo una pagina di pubblicità comparsa su tutti i quotidiani e che mi ha fatto letteralmente sobbalzare sulla sedia oggi. Tra un po' arriverà anche il se no. Uno, nessuno, 100 Milan. Io sono un padre, ho due figli. Come non so che cosa ha fatto mio figlio? Lo sai benissimo. Ha fatto una rapina. Amico mio. Togliamo anche le pistole ai carabinieri, a tutti quanti. Sì, no, ma è giusto, bravissimo questo signore qua. Tutti contenti che il coronavirus si porta via i nonnetti malandati. No, ridete. Ma che poi voglio vedere tutte le famiglie che vivono e campano con la pensione dei nonnetti, quanto saranno contenti. Ma chi ride? L'unico a vincere è l'INPS. Ma chi ride? C'è una soluzione, secondo me, a questo problema. Derubare gli anziani prima che contraggano il coronavirus. Eccolo lì. Andate a vedere, perché tutti gli anziani hanno un po' di contante nascosto. Eccolo in là. Casa. Dovete scoprire dov'è il contante dell'anziano prima che si ammali di coronavirus. Allora, fare così. Intanto, primo caso in Sardegna, è sbarcato in Sardegna il coronavirus, questo leggiamo. Ma è andata col traghetto? Eccolo là, vedi, lo so, vabbè. D'altronde, nei tempi ponte. Delle difficoltà, l'ironia e il sarcasmo sono delle armi. Secondo me, se è arrivato col traghetto, è arrivato già debellato. Debellato. Sì. Guarda qua, la pagina 1 apre, sul Corriere della Sera, l'ho vista su Repubblica, su tutti i maggiori quotidiani, è una pubblicità di una compagnia di energia, che non citerò, e... Qual è la scritta a caratteri cubitali? Leggila tu, Leonardo. Fatevi contagiare. Ovviamente ci sarà un creativo. Mi veniva un'altra parola che iniziasse con cre, che ha partorito questo. Dalle mani lavate per almeno 20 secondi, di chi lavora e non ha pensato neanche un secondo di tenerle ferme, dalle labbra che non sanno trattenere una risata, fatevi contagiare, restate aperti, aprite gli occhi, aprite le orecchie alla musica, continuate a sentire, parlatevi, fatevi contagiare da un pensiero stupido, dalla forza di chi il virus lo affronta. E poi dopo ti offrono un contratto di energia. Fatevi contagiare. Ma si può essere più creativi di così? Assomiglia, questa è la pubblicità a Calloni. Vivi il futuro. Sì. Con il tronchesino Ronchetti. Cioè c'è tutta una grande costruzione fatevi emozionale. Contagiare. Ma fatti contagiare te, va. Creativo che non sei altro. No, funziona così. C'è una costruzione emozionale per arrivare a un fatto concreto. Giocando poi sul fatevi contagiare in tempi di coronavirus. Sto facendo un'analisi sociologica. Fatti contagiare te. Sto facendo un'analisi sociologica della questione. Non stiamo facendo altro. Lei mi capisce, qui per fare le analisi sociologiche. Sì, va bene, fatevi contagiare. È bravo questo creativo. Ci saranno messi vari creativi a dire: dai, facciamo, fatevi contagiare. Bello come slogan, di sti tempi, bello, bellissimo. Secondo me è efficace perché la scritta fatevi contagiare è in rosso, mentre il resto è scritto così normalmente. E tu sei portato a leggere, sì. Quindi funziona. Vabbè. Alex Corlazzoli, ciao, come stai, maestro? Ciao a tutti e due, ciao, buongiorno, abbastanza bene. Stai bene, tra l'altro tu non sei in zone molto distanti da... No, Crema direi che è a due passi da Codogno proprio. Esatto, ma lì non siete zona rossa però. Non siamo zona rossa, allora, per fortuna ancora non siamo zona rossa. Il buon Alex Corlazzoli, che tra le varie cose che ha scritto, l'ultima era il sussidiario per genitori con esercizi, forse oggi è il caso di riprenderlo in mano, perché sai che Alex molti sabato... hanno reagito così, cioè i genitori, i ragazzi, quando si è sparsa la notizia, i ragazzi, e vai, i genitori, no! un'altra settimana di chiusura delle scuole. Ma adesso si comincia a pensare di dare compiti, almeno quello, sì. Che si fa questa settimana, Alex? Ma devo dire che tutti i maestri si stanno organizzando nella maniera più efficace ed efficiente possibile. Ho visto colleghi, ecco, fare quaderni veri e propri a quadretti e a righe, e fare i compiti, insomma, e mandarli via chat a mamma e papà, e quindi in qualche modo aiutare i genitori a far passare il tempo, perché è anche una questione di far passare il tempo con questi bambini. Quando sono a scuola sono impegnati, no? Hanno un tempo davvero di impegno, di utile, mentre quando sono a casa, come evitare la tribù o come evitare, insomma, il videogioco? Allora devo dire che un po' da tutte le parti, più facile chiaramente nelle scuole superiori, dove con il registro elettronico si raggiungono un po' tutti i ragazzi. Ecco, però questo è un tema. Molti hanno sottolineato che questa scuola, per come è strutturata, non è molto pronta a quello che viene definito e-learning, cioè l'insegnamento a distanza. Perché è bello dirlo, facciamolo, ma se non c'è una preparazione dietro, cioè di colpo uno si inventa la docenza a distanza. La telescuola, no, verissimo, appunto, anche perché devo dire che spesso, ecco, non si hanno gli strumenti per fare la telescuola, insomma, non si hanno nemmeno i laboratori di informatica efficienti collegati alla rete, si hanno pochi computer, eccetera. Quindi, ma devo dire che l'esercito dei insegnanti ha cercato di sopperire questa situazione attraverso i social network. Ho visto utilizzare Facebook, ho visto utilizzare le chat, mandate stavolta le chat, le famose chat che tanto vituperate, tanto condannate dai maestri perché utilizzate male dai genitori. Stavolta hanno utilizzato le chat per mandare a rappresentanti di classe e poi rappresentanti di classe attraverso le chat. Ha mandato tutti i compiti a tutti gli altri genitori. E quindi c'è in corso una catena che ha cercato di sopperire anche le difficoltà della scuola, che non ha effettivamente, non da tutte le parti. Dopodiché che la situazione sia non da sottovalutare, lo confermano anche le agenzie. L'agenzia di poco fa apprende l'ANSA che un liceo di Roma o in provincia di Roma è stato chiuso evidentemente, eccolo qua, chiuso liceo alle porte di Roma, scopo precauzionale. A Pomezia, secondo quanto sapete, il padre di uno studente avrebbe avuto sintomi riconducibili al coronavirus e per questo la dirigenza ha deciso di fermare le lezioni. Quindi non si sa neanche, ma già fermiamo prima. Sì. Sì, sono stati così, a occhio sembrerebbe un po' eccessivo, però dici, invece sì, in via precauzionale l'hanno fatto. Però Alex, quali sarà come sarà il ritorno a scuola e quali conseguenze ci sono? Ipotizziamo 2 settimane, ipotizziamo neanche 3 di stop. Ma davvero la scuola può recuperare? Cioè uno, proprio dal punto di vista dell'apprendimento, del liceo, è vero che non perderanno l'anno scolastico, ma qualche ricaduta sull'apprendimento ci sarà, sui programmi. Sì, qualche ricaduta ci sarà evidentemente, perché 2-3 settimane, perché io penso che forse non ci si fermerà 2 settimane, credo che qualche ripercussione ci sarà, anche perché non bastano i compiti mandati a casa, ci sono delle indicazioni ministeriali da rispettare, ci sono una serie di step, insomma, che sono stati in qualche modo bloccati con questa sospensione dell'attività didattica. Bisognerà correre un po' nei prossimi mesi, bisognerà un po' recuperare quello che si è perso in questi 15-20 giorni, insomma. E quindi, ecco, magari tralasciare alcune attività extracurricolari, alcuni progetti carini che a volte vengono fatti nelle scuole per dedicarsi di più a quella che è l'attività didattica curricolare. E questa è l'unica soluzione che vedo. Tra l'altro bisognerà prepararsi al ritorno a scuola di questi studenti anche psicologicamente, insomma, per spiegare loro. Tu che cosa racconteresti a dei bambini, ecco, bambini o ragazzini, cosa è successo? Ma non bisogna nascondere nulla ai bambini, non bisogna mai nascondere quella che è la verità, e quindi direi che bisognerebbe raccontare proprio, spiegare bene soprattutto cos'è questo coronavirus, no? Senza creare allarmismo tra i bambini, senza creare panico tra i bambini, ma spiegare, ha fatto bene il lavoro internazionale, insomma, oppure ci sono in giro molti video che stanno cercando di spiegare ai bambini che cos'è un virus, quindi spiegare scientificamente anche ai bambini e quindi fare lezioni in qualche modo di cosa si tratta. Ecco, le scuole poi si devono preparare con un'altra cosa, caro Alessandro, preparando soprattutto quello che è il sapone, quello che sono gli elementi essenziali, no? La pulizia, l'igiene, certo. Certo, ricordavo Burioni da Fazio quanto sia importante lavarsi le mani più volte al giorno, eccetera. Nella scuola spesso manca il sapone, mancano i prodotti igienici, quindi ecco, dovranno i dirigenti in queste due settimane provvedere a adottare le scuole. Beh, questo è una cosa fondamentale, no, perché altrimenti se si dice lavatevi le mani, mantenete i comportamenti di igiene personale base e poi effettivamente mancano i saponi. Qui a Radio 24 hanno messo uno splendido distributore di Amuchina. Sì, infatti tu sei sempre lì, passi tutto il tempo lì. Lo sai che a furia di metterti Amuchina sulle mani, dopo un po' mi sono anche munito di crema idratante, perderai le difese immunitarie delle mani. No? Quindi fallo, ma con una certa parsimonia. Un grano salis. Ringrazio Alex Corlazzoli. Intanto qua arrivano. Si può avere il sito di Mario Calabresi? Cioè, manco c'è MarioCalabresi.it. Dai, è facile. Nome e cognome tutto attaccato a punti. www.MarioCalabresi.it. Senti qua un altro ascoltatore. Buongiorno, mio nipote, prima elementare, da lunedì ha i compiti a casa programmati. Esatto. È un'ascoltatrice. Sì, anche Lucia, mio figlio. Lucia anche da mio figlio. Ma cioè, nel senso, per esempio, mia figlia, i miei figli hanno i libri nell'armadietto, perché c'hanno un armadietto a scuola, e quindi... I tuoi figli sono pigri, non vogliono portarsi i libri dell'armadietto a casa, è un problema loro. Fanno anche apposta. Ma sai che scuola come etimo vuol dire vacanza, quindi in questo periodo la scuola prende il vero... scuola. Sì, prende il vero significato. E vabbè, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Giungendo Firenze, città nella quale vivo, con la mia macchina targata a Milano. Pensate che io possa avere ripercussioni nel quartiere nel momento in cui la parcheggio? Ah dai, no, spero proprio di no, adesso la macchina. Beh, se in quel quartiere c'è un focolaio, magari sì. Chiuse le scuole per i bambini, non preoccupatevi, tanto sono aperti i bar per i nonni e i bambini, c'è pieno di bimbi nei bar e chiudono le scuole, ma... Vabbè, però io sono dell'idea che mantenendo le precauzioni si debba andare in giro e vivere la città, no? Senza esagerazioni. A me sono saltati 5 spettacoli in questo periodo, quindi chi li rifonde adesso? Sì, davvero. Bisognerebbe trovare un modo di comunque fare spettacolo pagati, anche senza spazio, perché c'è chi fa la diretta a Facebook, vabbè. Deve avere tanta gente che ti guarda, immagino, per incassare qualcosa. Comunque, 5 serate saltate non sono... Bruscolini sta chiedendo un aumento, caro direttore personale, è qui Leonardo Manera. Vabbè, d'altronde io peroro, ti piace peroro, peroro la sua causa? Mm-hmm. Ti piace peroro? Sì, è brutto. È bruttissima come parola, effettivamente. Io peroro la sua causa. Vai! C'è un momento in cui dall'inconsueto si passa al consueto, c'è un momento in cui le situazioni percepite come anormali diventano invece normali e ci si comincia ad adattare. Succede in tutti i campi e in tutti i settori della vita. Succede per esempio quando si fa la doccia e poco alla volta si scopre che il soffione della doccia è intasato dal calcare. Per pigrizia non lo si pulisce e ci si adatta a far la doccia solo con 2-3 getti d'acqua che scendono a fatica dai buchini intasati. Oppure succede in amore, quando la sofferenza per un abbandono che prima fa scoppiare il cuore, fa piangere di dolore, poi dopo diventa la consuetudine quotidiana e poco alla volta, in modo un po' mesto, si cerca di dimenticare la persona che in precedenza ci aveva regalato un cuore sorridente. E chi l'ha provato almeno una volta nella vita, il cuore sorridente, sa quanto poi sia difficile tornare ad avere un cuore abitudinario. Ma ci si abitua anche a quello, perché il cervello, per tutelarci, per proteggerci, a volte ci fa dimenticare quello che di più bello c'è stato nella nostra vita. Ci fa dimenticare il cuore sorridente. Sembra un paradosso, ma è così. Succede che ci si adatti quando da un piccolo paese si arriva in una grande città e bisogna fare i conti col traffico, con la metropolitana. Inizialmente sembra una situazione insostenibile, ma poi, poco alla volta, lo spirito di adattamento umano ci fa pensare che sia normale ogni giorno passare da una parte importante della vita in coda su qualche tangenziale o circonvallazione. Tanto che poi, quando si muore, quelli che hanno passato più tempo col caro estinto non sono forse i parenti, ma i compagni di coda, che sarebbero più titolati a darne il triste annuncio. Insomma, succede sempre di adattarsi anche alle situazioni più complicate, alle quali non ci si vorrebbe adattare mai, eppure poi ci si riesce. E non si sa in questo momento quanto dovranno andare avanti le misure per arginare il coronavirus e poi quanta diffusione avrà in Italia e nel mondo. Non si sa se una volta che ci si è ammalati e poi guariti ci si possa ammalare ancora, come pare sia successo in Corea, che sarebbe una bella sfiga. Come innamorarsi due volte della stessa persona che ti ha lasciato, vorrebbe dire essere recidivi e anche autolesionisti. Non si sa poi se il coronavirus sparirà coi primi caldi oppure se dovremo portarlo con noi anche sulle spiagge, dove almeno i nostri vicini di ombrellone dovranno però essere a 2 metri di distanza, e questo sarà un effetto positivo del virus. Certo è però che per un periodo non identificabile le nostre abitudini cambieranno, e in un modo o nell'altro cambieremo anche noi. Meno strette di mano, meno baci, meno abbracci, meno gruppi numerosi, forse più riunioni nelle case, forse anche più solitudine, meno traffico per le strade, meno ressa sui mezzi pubblici, più scetticismo verso il prossimo e mani sempre pulite e starnuti nel gomito. Gomiti insidiosissimi, pieni zeppi di virus e batteri, ma mani pulitissime, candide e piene di paura. Ci isoleremo da soli per paura di finire in isolamento, e allora il virus avrà vinto anche senza combattere. Avrà vinto a tavolino, in una partita con gli spalti vuoti, per assenza di pubblico, per paura del contagio. Poi un giorno tutto questo finirà, quando probabilmente le nostre abitudini saranno già un po' cambiate. Dal soffio nella doccia non uscirà quasi più acqua. Sarà quasi tutto ostruito dal calcare, dall'incrostazione delle paure più o meno giustificate, finché qualcuno, prima o poi, dovrà prendersi la briga di far scorrere di nuovo l'acqua, di far scorrere di nuovo la vita. Oh, bravo Leo, questa è meglio di una boccata d'ossigeno, eh? Meglio del fatevi contagiare. Io non riesco a uscire da questa pubblicità veramente che trovate oggi su tutti i maggiori quotidiani, con questo slogan. Vedi che ti ha colpito contagiare. Molto. Mi ha colpito molto in negativo. Ma sì, non è vero, ma scusa, lo scopo della pubblicità è... Ah, ho capito, essere, certo, visibile per loro, ricordati. Per loro. Io di certo non farò mai un contratto con questa. Io si chiamo oggi. Come chiami, si chiama? Oggi. Fammi vedere. Vabbè, ma non dirlo, no, perché sennò raggiungono il loro scopo. Insomma, io. Sì, alla oggi, fine, vediamo alla... se c'è il numero verde. Chiamo subito, non riesco a resistere. Voglio chiamare subito, voglio rifare tutti i contratti dell'energia a casa mia con questa. Paola da Torino. Paola, buongiorno. Anche tu. Paola. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io volevo semplicemente pensare anche un po' al carabiniere. Sì, la notizia, di apertura di cui abbiamo parlato, la vicenda di Napoli, sì, prego. Sì, la vicenda di Napoli, scusi, perché non si parla mai tanto di lui, per la carità, si tende abbastanza a giustificare questi ragazzini che hanno, vabbè, tutti, no, i problemi. Giustificare, di mondo, no, okay. Giustificare una rapina, no, nessuno ha giustificato. È vero che, insomma, lui è morto e quindi la morte è sempre la morte, per cui... Certo. Però, voglio dire, mettiamoci anche un po' nei panni del carabiniere, che lui è tranquillo in macchina, sente, vede questa pistola, e poi è stato detto che lui ha sentito un click. Sì, sì. Quindi, vabbè, se sente un click nella tempia, io penso che automaticamente, sì, ti scatta l'istinto, non so, di sopravvivenza. Guardi Paola, ma sicuramente lui, allora, intanto la dinamica non la sappiamo, se non da ricostruzioni di giornali. Quello che si sa a posteriori è che la pistola era finta della rapina, e che lui ha sparato, ecco, e l'ha ucciso. Dopodiché, ma in realtà pensiamo tutti al carabiniere, certo che è vittima e sicuramente... avrà delle ripercussioni anche psicologiche, oltre che non so se ci sarà un processo per questa vicenda. Sicuramente tutto nella vita sperava di tranne che di trovarsi vittima di una rapina e a uccidere il rapinatore, perché è un dramma per lui anche, non certo. Mi ricorda questo episodio, ti ricordi quando il calciatore Rececconi finse una rapina in una gioielleria? Era uno scherzo e finì in tragedia. Con una pistola finta, tra l'altro, anche lui, Rececconi. Eh sì, questa invece era una rapina vera, sì. E il carabiniere ha reagito così e certamente dovrà farne i conti psicologicamente per il resto della sua vita, su questo non c'è dubbio, quindi in questo ha ragione Paola, è una vittima anche lui. Allora ci fermiamo per la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan, dopo il giornale radio riprendiamo. Uno Nessuno 100 Milan. Ma perché a Napoli sistematicamente continua a distruggere le strutture pubbliche di sanità? Fare un DASPO sanitario, no? Cioè, se stai male, vai in una clinica privata e te la paghi. Era lo spettacolo, gli spettacoli, potresti farli in strada. Ma Nera, visto che ti stai lamentando, vuol dire che guadagni un sacco di soldi a fare le serate. Quanto prendi ogni serata tu? Hai visto? Oh, ragazzi, però inizia la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Io che sono il primo a dar contro a Manera, ci provo anche un pochino di gusto sadico in questo. Da questo punto di vista devo dire, ma dai, cavolo, ma poveretto, cioè, vive di questo, è un artista, deve rinunciare lui come tantissimi altri artisti alle serate, e voi ironizzate, bastonate, ma sono proprio cattivi questi del pubblico, eh? Sì, anche il tono con cui ha detto, ma Nera, quanto prendi tu, saranno, come scusate, cazzi miei, per dire, come dire, te lo meriti, anche, te lo meriti. Da uno che incontro per strada, quanto prendi tu per il tuo lavoro, no? E poi c'era un retrogusto del dire così, te lo meriti, un pochino di meriti. Vita spartana, impara a stare recluso. Comunque io ho già lavorato per strada, la signora dice, io ho fatto due anni per strada, a lavorare per strada ed è una grande soddisfazione, è una delle cose più belle che si possano fare per chi fa questo lavoro. Forse tanti anni fa, adesso secondo me c'è un menefreghismo, un tale distacco verso... No, la cosa più difficile, come si dice, è formare il cerchio, cioè fare in modo che le persone si fermino a guardare. Poi una volta che si fermano diventa più facile. Tu metti i tuoi cappelli per terra e se fai qualcosa... Ah sì, tu eri famoso perché ne avevi 15 di cappelli, per evitare che le persone si disperdessero. Ne avevi 15, avevi assunto a un certo punto anche 3 portacappelli da tanto guadagnavi, no, mi ricordo. Tu scherzi, ma invece chi lavora per strada deve mettere veramente più cappelli, perché altrimenti uno che magari è un po' più distante non si avvicina all'unico cappello, invece si trova un cappello più vicino e più invogliato anche a mettere sì, mi ricordo, la moneta o la banconota. Sì, soprattutto le banconote quando lavoravi tu. Allora, le 10 e 9 minuti, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, ci chiama Raffaele da Napoli, credo per la vicenda dell'uccisione di questo sedicenne, è giusto Raffaele? Buongiorno. Sì, buongiorno Milan, buongiorno. La chiamo per questo. Sì. Niente, io senza entrare nel merito della dinamica, perché sono cose che ci possono anche stare purtroppo nelle grandi città e quindi saranno gli inquirenti poi a stabilire come sono andate le cose. La cosa che mi ha sconvolto di più è stata l'azione successiva, cioè l'assalto al pronto soccorso. Io sì. non ho capito questa gente cosa ha creduto di fare. Guardi, ma secondo me De Giovanni, se l'ha sentito in apertura, ha proprio detto è un atto di guerra, cioè è come dire, no, è una guerra. L'avrei voluto sentire, sì. Però mi ha sconvolto come napoletano, mi ha sconvolto questa cosa, sa perché? Perché queste persone non solo sono responsabili della condotta del ragazzo che ha 15 anni e che all'una, alle due di notte non doveva stare per strada ma doveva stare nel suo letto a dormire, però poi a prendersela con un pronto soccorso, ma che volevano dal pronto soccorso? Forse pensavano che i sanitari potevano riportare in vita, no, il ragazzo. Ma io credo che fosse solo una manifestazione di rabbia, cioè hanno voluto sfogare la propria rabbia lì, non lo sto dicendo per giustificare, una cosa terribile. Il dottore, possiamo forse anche sentirlo, Ciro Verdoliva, che abbiamo isolato, è il direttore generale dell'AS Napoli 1 Centro, che ha commentato così il fatto che a un certo punto ha dovuto chiudere l'ospedale. Io ho dovuto sospendere le attività del pronto soccorso alle 7.30 perché non c'erano né le condizioni igienico-sanitarie e né avevamo le attrezzature e la possibilità di rendere un buon servizio ai cittadini. Cioè hanno sfasciato tutto, sono arrivati lì e hanno sfasciato tutto. Che speriamo che vadano fede incontro a qualche sanzione, ah, almeno, io ne dubito però. Dubito che siano stati identificati, ma non guardi che si legge sui giornali, non è il primo caso, eh? Non è il primo caso di, anzi ce ne sono stati tanti, proprio di medici aggrediti, addirittura quando succede magari di resa dei conti con pistolettate, se qualcuno è ferito, chi lo voleva uccidere pensa di bene di andare al pronto soccorso per finire il lavoro che voleva fare, quindi a volte purtroppo i pronto soccorsi sono dei presidi contro la violenza. Certo, terribile questa cosa che hanno sfasciato il pronto soccorso, che devo dire. Il padre intervistato da Repubblica a precisa domanda sul pronto soccorso ha detto: vabbè, non so chi sia stato, però mettetevi nei panni delle persone del quartiere, avevano saputo che un ragazzo di 15 anni era stato ucciso in quel modo. E che vai, allora sfascio un pronto soccorso. Cioè la sua logica è, cioè, pronto soccorso... Mettetevi nei panni, cioè, ma che vuol dire? Non si capisce. Al limite proprio, non so, sfasci, non so, spacchi un cassonetto perché ti arrabbi, dai un pugno contro un muro di rabbia, cioè sfasci il pronto soccorso. Non so, tu l'hai capita sta logica? No, io ho visto tra l'altro il padre che ha parlato, non so se tu l'hai intravisto, sì, nelle varie, sì, televisioni, sì, sì, abbiamo sentito, in alcune parlava un po' in dialetto, in quella parte che abbiamo mandato noi si capisce invece quello che ha detto, ma per carità, cioè hanno da portare un dolore addosso per la morte di un figlio, quindi io sono l'ultimo a dover dire una cosa, però cioè, voi capite la rabbia di questi ragazzi? No, io non la capisco, cioè posso capire la rabbia ma non sfasciando il pronto soccorso con dei medici, sì, che stavano cercando di salvarlo. Il vero problema è capire perché un ragazzo di poco più di 15 anni si mette in testa di andare, sì, a fare una rapina, cioè. Questo sì. C'è Roberto che ci chiama da Massa. Buongiorno Roberto. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Complimenti per la trasmissione. Mi chiamavo sulla didattica telematica che è stata, sì, invocata e diventa il nuovo mantra. Ecco, volevo portarvi la mia esperienza, che non è banale la formazione del docente. Io, senza fare il nome, per evitare pubblicità, lavoro in un'università telematica. E l'attività più complicata è la formazione del docente, perché l'attività didattica telematica non è prendere dei contenuti e metterli sul web, ma può essere sincrona, asincrona, webinar e quant'altro. Mio figlio fa le medie, ha i libri che hanno dei contenuti didattici, ma a scuola mai aperti. Ecco, quindi la formazione del corpo docente è fondamentale. Certo, no, questo sicuramente, Roberto, la Massa fa bene a sottolinearlo. Non è che uno si improvvisa la scuola telematica. Intanto uno deve avere i PC a casa. Certo, un PC ormai ce l'hanno più o meno tutti, ma non è detto che i docenti devono essere preparati. Invece però, Leonardo, a me è colpito una cosa, poi dopo parliamo anche di altro con un'altra ospite dopo il traffico. Giustamente c'è il coronavirus, c'è l'emergenza, ma si litiga per il calcio. Il calcio, cioè, allora io amo il calcio, seguo il calcio, tengo il Milan, lo sai come si chiama Leonardo Manera, siamo solo milanisti qui dentro. Ma non l'ho veramente capita tutta questa polemica. Soprattutto io sono il primo a volte a fare le battutine sulla Juve, eccetera. Ma in questo caso io non ho veramente capito di che cosa si accusa la Juve. Campionato falsato. Ma se c'è il coronavirus ed è chiuso, no, tutto, però non è vero che è chiuso tutto, perché quasi in certi tutto campi, ad esempio a Venezia, se non sbaglio, si è giocato col pubblico presente. Sì, ma non quale si sarebbe il complotto della Juve? Allora in questo momento l'unica favorita è la Lazio, se vogliamo, che ha vinto, è l'unica che ha giocato, gli altri no, quindi è bella prima in classifica, si gasano, sono psicologicamente caricati. Sì, però se in certe, la Juve? Se in certe città, anche dove c'è il virus, c'è tipo Venezia, si gioca, e poi in altre no, non si capisce la logica. E questo secondo me che va bene, non si capisce la logica, ma non ho capito adesso perché sarebbe favorita da questa situazione la Juve. Perché? Chi ha detto perché giocando ieri sera avrebbe vinto l'Inter? Ma chi l'ha detto? Cioè voglio dire, magari giocavano ieri sera e la Juve vinceva 3-0. Quanti sofismi, è colpa della Juve, basta, ecco, basta così. sofista. Così, c'ho uno spiffero in casa, è colpa della Juve. A parte che lo risolvi con l'elisir del dottor Meazza, lo spiffero. Questo lo sapevo, infatti ho uno spiffero in casa pur avendo bevuto sorsate dell'elisir del dottor Meazza. È colpa della Juve. Cioè, è colpa di Agnelli, non so, Agnelli, se qualcuno chiamandomi me lo spiega, ma pacatamente, quale sarebbe il complotto della Juve in questo caso, ma se qualcuno me lo spiega, io sono pronto a dire: ah, vabbè. Tutta la questione pare capito. Che sia nata. Io ho intravisto qua là sui social perché Agnelli effettivamente avrebbe preferito rinviare la partita, sì, come poi sì. È stato, anche poi, se però, inizialmente si era ventilata l'ipotesi invece di giocare a porte chiuse. A parte che adesso forse si è adombrata l'idea che si possa giocare lunedì prossimo, il 9 marzo. E quindi vorrei sapere se poi finirà che si giocherà il 9 marzo. Tutto questo gran complotto, cioè rinviare una partita di una settimana, questo grande complotto, dove sarebbe, cioè non è che la Juve ha detto: prima della partita della Lazio si sospenda il campionato, siamo primi, abbiamo vinto il campionato. Sarebbero capaci di tentare questa cosa, scherzo. Cioè, non l'ho capito questo gran complotto. Cioè, tu neanche, secondo me, dallo sguardo. L'unica cosa è quella, non si capisce perché in certi posti si gioca e in altri no. Forse perché in Serie B o in Lega Pro non arriva... ho capito, no, c'è per meno... esempio a Milano non si è giocato, Milan-Genoa era a porte chiuse perché Milano è Milano, no? Si sa. Però Venezia Torino si è anche... ma perché Venezia evidentemente non è così come a Torino, cioè la situazione, e poi a Torino c'erano i tifosi di Milano, dell'Inter, no? Che andavano a Torino, per questo era a porte chiuse. Io avrei giocato a porte chiuse. Campionato è falsato. È falsato, colpa della Juve. Sì. Va bene, traffico. Far calcio di rigore. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, vedi che ho scatenato il complottone, sarebbe questo, che la Juve è in calo e dunque ha bisogno di riposarsi. Questo sarebbe, ma qui siamo veramente se questa è la spiegazione di un complottone, cioè aveva bisogno, era in scarsa forma rispetto all'Inter. Vabbè, ma dai, cioè, insomma, è chiaro che la Juve ha anteposto l'incasso, i 5 milioni di perdita di incasso per il pubblico, ha anteposto l'incasso alla partita. Questo. E qui magari si può discutere: ma una società che mette davanti i 5 milioni di euro che si perdono per il mancato incasso alla prestazione sportiva. E vabbè, questo è un ragionamento che potrei seguire. Però è colpa. È colpa della Juve sempre. Vabbè. Allora, il campionato è falsato. Ecco, sono partiti così. Però è vero, anche perché non è che poi, cioè, anche se tu giochi dopo, recuperi le partite. Ma se la giocano magari lunedì prossimo. Ma non è questione. Lunedì prossimo. Sì, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ma no, è vero, perché la Lazio. Ma certo che non è la stessa cosa. Se c'è il coronavirus, non è la stessa cosa. E chi è favorita a tutta questa situazione? Ma che ne so, la Juventus. Io spero la Prosesto. Hanno sospeso i campionati di Serie D. Io proporrei di congelare. Ho scritto adesso al presidente della Prosesto e lui è subito. Adesso ci muoviamo, sospendiamo i campionati. Siamo primi, andiamo in Serie C. Basta. Ecco, per esempio, si potrebbe fare così. Va bene, dai, parliamo d'altro. È 10-20 minuti. Mi ha colpito questa notizia che è uscita sui giornali la scorsa settimana. Volevo sottoportela, caro Leonardo. Al University College a Londra hanno stabilito nuove regole, e cioè sono stati messi al bando gli amori tra professori e studenti. Sì, ho letto, visto. Al bando, basta. Io voglio chiamare in causa Rosa Maria Spina, psicologa, sessuologa. Buongiorno, dottoressa Spina, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Che dobbiamo dire? Cioè, non, è vero che lei di recente aveva detto che, ma insomma, da che mondo è mondo? Gli studenti, credo, ma ce lo spiegherà meglio me, lei, più le studentesse sono affascinate dal ruolo dei loro docenti, dei loro insegnanti. Tra l'altro anche se uno insegna male. È proprio il ruolo. Sì, diciamo che esatto, è il ruolo più che l'insegnante in sé per sé o magari la materia insegnata. Poi è ovvio che se l'insegnante è anche bravo, sicuramente c'è una doppia componente di fascino. Questo è un argomento vecchio, forse quanto vecchia è la scuola, perché sono dinamiche sempre esistite, sì. Così come sono esistite, diciamo, le dinamiche al contrario, in cui è il professore che si innamora della studentessa. Quindi lei dice sono, ecco, e conferma che sono più le studentesse, quindi diciamo il sesso sì. femminile che subisce il fascino sì. del docente piuttosto che maschi che subiscono il fascino. In percentuale, statisticamente parlando, sono più le ragazze, le studentesse che sono attratte dai loro professori. Perché comunque le ragazze, le donne, le studentesse sono molto più mentali dei ragazzi, ma questo un po' in generale. Quindi diciamo che quello che viene definito oggi sapiosexual, cioè l'essere attratti dall'intelletto più che dal fisico. Com'è che viene attenzione, me lo ridica bene, com'è che viene definito? Sapiosexual. Sapio da sapiens, diciamo. Da esatto. Che... Sexual, mamma mia. Dall'intelletto, quindi è la parte intellettiva, intellettuale che attira più della parte fisica. Ecco perché fa molto più presa sulle donne, sulle ragazze più che sugli uomini, per esempio, perché sono ecco, le donne più attratte da sì. questo aspetto. Su questo Leonardo Manera è spacciato, perché lui di sapio, no scherzo, era una disfida qua tra me e Leonardo. Però vorrei capire questo. E beh, allora, in realtà anche la comicità fa parte del sapio sexual, perché far ridere una donna sembra facile, ma non lo è. È vero, se la mettiamo poi su questo campo è vero, gli ho dato un grande Leonardo, ti è arrivato un grande assist, perché diciamo sì, la verità c'è un problema poi, che la donna si aspetta che il comico sia così brillante anche nella vita quotidiana, invece poi si rende conto che è il contrario, quindi di ogni possibile eccitazione la vita non è tutta un palcoscenico. No, esatto. Però, dottoressa Spina, ci deve spiegare come mai, secondo lei, a Londra sono arrivati a questo tipo, alla University College London, si sono arrivati a questo tipo di proibizione, a far arrivare al licenziamento a un docente che intraprende una relazione sessuale con una studentessa o studente. Beh, sicuramente le misure sono molto severe e molto restrittive, però la base di tutto è lo squilibrio di potere che c'è appunto tra lo studente e la studentessa, il proprio professore o le proprie professoresse. Cioè noi comunque siamo abituati, al di là di quello che può essere il grado di istruzione, a pensare che il docente o il professore sia comunque una guida per i suoi studenti e che quindi debba mantenere comunque questo ruolo super partes. Nel momento in cui i ruoli vengono confusi da una relazione soprattutto sessuale, a quel punto questa guida viene meno, perché sì. il sesso diventa un elemento di potere all'interno di questa diade. Quindi lei non contesta tanto questa decisione, anche perché, guardi, hanno deciso questo, che il divieto è nel caso di rapporto tra docente e studenti dello stesso corso. Se il corso è diverso, quindi lì si instaura un rapporto, poi dopo deve fare l'esame uno con quel professore. Se invece esatto. si instaura rapporti con studenti di altri corsi, basta dichiarare la relazione al rettore. Cioè, c'è il form, esatto. io dichiaro di... Già, è una roba terribile. È terribile perché poi finiranno tanti matrimoni, perché saranno amanti, insomma saranno anche sposati esatto. questi docenti. Quindi. Beh, io penso che in realtà lo si faccia proprio per evitare questo, cioè se arrivi a dichiarare la tua relazione al rettore vuol dire che la relazione è dichiarabile e che quindi non è legata appunto a queste dinamiche di potere, a questo squilibrio di ruolo, io sono il tuo docente, tu magari vieni a letto con me, intraprendi una relazione con me, io poi ti faccio passare l'esame o viceversa, perché possono essere anche gli studenti a sedurre i propri docenti per poi superare gli esami. Certo. Certo che poi ci sarà il form per dichiarare decaduta una relazione, non se ne esce più, cioè per carità. Sì, di solito è così, perché ora in Inghilterra è arrivata recentemente, diciamo, questa decisione, ma negli Stati Uniti, soprattutto per esempio strutture ospedaliere, dove è molto facile che si vengano a creare delle relazioni tra colleghi, ma anche tra diciamo superiori e strutturati, in realtà ai propri primari, al proprio direttore sanitario questa cosa va dichiarata, proprio per evitare che si vengano a creare situazioni diciamo attivati. Ma infatti, infatti in America, sì, sì, ma infatti in America ad Harvard, a Yale è già così, cioè ci sono già questi tipi di divieti. Ma infatti ce lo vuole allargare un po' al campo dei rapporti lavorativi anche, dottoressa Spina? Cioè, che dovrebbe succedere? La relazione allora tra capo o barra capa e sottoposto, sottoposta non... Anche questo è una dinamica antichissima, no? Perché comunque le segretarie e gli avvocati sono forse il cliché, se vogliamo vederla così, più famoso, insomma, in un certo senso. Quindi sono comunque situazioni anche qui sempre esistite, poi lo sappiamo, anche nella politica a livello mondiale, insomma, abbiamo esempi, Clinton, scandali vari. Quindi diciamo che ad alti livelli in realtà è una situazione molto meno gestibile, perché come fai a dichiarare una relazione del genere? Però sicuramente il fascino dell'uomo di potere che ha un determinato ruolo è sempre esistito e continuerà probabilmente ad esistere. Sì, ma infatti non lo so, non lo so quanto lo si possa normare con... Bisogna proibire tutti i rapporti, proibire è l'unica strada. Proibire, la rinuncia. Sicuramente dipende dal contesto, perché un contesto universitario, per quanto ovviamente parliamo di ragazzi che siano maggiorenni, quindi comunque teoricamente consenzienti, è comunque un contesto chiuso. Quindi è possibile in un certo senso forse un controllo di questo tipo. In altri contesti è ovvio che la situazione diventa meno controllabile, quindi insomma affrontarla con un divieto di questo tipo sarebbe un po' anche perché dentro no? un ambiente di lavoro, anche se c'è una relazione tra segretaria e capo, insomma sono scelte comunque decise liberamente, ma certo, soprattutto magari c'è una contropace, uno scambio di favori, esatto. però sono scelte libere. Ma soprattutto libere. Cioè, si sta nei posti di lavoro 10 ore al giorno, cioè gran parte della nostra vita si svolge sui posti di lavoro, 8 ore dormi per dire e 10 ore le passi lì, e quindi uno è normale che conosca, cioè può succedere, no? Che uno conosca. Decisamente sì, infatti è questo diciamo che rende impensabile un non divieto di questo tipo nei posti di lavoro, cioè noi lo sappiamo anche in questo caso statisticamente parlando i posti di lavoro sono i luoghi dove nascono più relazioni, che poi siano relazioni amorose a lungo termine o sessuali o mordi e scappa, quello è un altro tipo di discorso, però così è. Allora, vogliamo dare alle famiglie italiane questa notizia, che quasi tutti quelli che lavorano hanno un amante sul luogo di lavoro. Diciamo che in realtà anche qui le statistiche dimostrano che frequentemente succede. Anche perché poi cosa succede? Che a casa di solito ci sono un po' le rotture di scatole, magari coppie sposate con figli, i figli creano problemi, magari vanno male a scuola, hanno fatto i capricci, eccetera, eccetera. E invece, sul lavoro serve per alleggerire la leggerezza. Situazione. Stupendo, insomma, lei ha distrutto, credo, milioni di milioni di sogni. No? Dare buone notizie lunedì mattina. La ringraziamo comunque, Rosa Maria Spina, psicologa e sessuologa. D'altronde noi abbiamo qui uno come Leonardo Manera che dice l'amore finisce sempre comunque. Quindi a sto punto tutti hanno l'amante, tutti coloro che lavorano. Ma sì, anch'io vedo che qui a Radio 24 c'è un grande... Smettila. No, l'ho visto. Ma no, hai visto niente. Sì, l'ho visto nel bagno di sotto. Ma non hai visto niente. Sì, dove c'è il bar. Ma non succede niente. L'ho visto lì. Ma ero andato per le mie necessità e nella stanzina accanto sentivo... Ma smettila. Due che vedo tutti i giorni qui a Radio 24. Ma non è vero, dai. Dai. Signori, metti un applauso. Gran battuta, Leonardo Manera. È la verità, la verità. Ogni tanto viene preso così da fare dei pezzi, si vede come su un palcoscenico. Allora ti dico proprio pari com'è andata. Ma... ero qui dove c'è la redazione. Non è vero. Ho visto una signora che lavora qui che ammiccando a un altro diceva: io adesso vado in bagno. E lui, smettila. No. Guarda, è vero quanto è vera la d'altra parte, se hai problemi sessuali cosa fai? Una bella elisir del dottor ingurgitone del dottor Meazza, un bel bicchierone. Ecco, Meazza, che è interista, ci vuoi venire a spiegare adesso, quando entriamo in un minuto, dove sarebbe il complottone della Juve? Io non l'ho ancora capito, il complottone della Juve. Facciamo la borsa, poi attenzione, Mauro Meazza ci spiega, oltre a vendervi l'elisir del dottor Meazza, vi spiegherà in un minuto dove sarebbe il complottone della Juve. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, 10:36 minuti, il momento è fondamentale, attenzione, perché adesso Mauro Meazza, lui ti, metti via l'elisir, metti via la boccetta per favore, Leonardo, ma digli qualcosa, è vergognoso, è vergognoso. Sì, cerca di venderli ovunque queste bottiglie. Metti via questa boccetta, buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Metti via non la ne vuoi, ma se mi hai ordinato prima una cassa, te l'ho lasciata ma lì. Ma perché io la rivendo posto. Poi al 10% in più, ho dai giri, lascia. Allora, Mauro Meazza, noto interista, alle 10:36 minuti ci spiega adesso in 30 secondi il presunto complottone della Juve. Forza, vai. Presunto, è patente. È patente, patente perché è così il campionato viene completamente alterato. Sì, come la d'altra nostra vita, d'altronde le scuole. Questo effettivamente sì. È vero, però sì. Fammi finire la mia tirata polemica. Allora, il campionato viene completamente alterato. Perché in questo modo la Lazio va in fuga. Quindi è la Lazio che ha fatto il complottone. Il virus ha tutto un suo andamento per cui la domenica c'è, però il lunedì invece si poteva giocare, non si capisce perché, il lunedì sparisce. Il virus tra l'altro distingue tra la Serie A e la Serie B. Sì. Perché in Serie A colpisce, però in Serie B invece evidentemente non colpisce. Allora, sì, ma il complottone della Juve. Il complottone è evidente, cioè chi aveva il momento di maggiore difficoltà, chi aveva i rumors di borsa sulle voci di una cacciata di Sarri. Ah. Mica c'erano le voci di una cacciata di Conte. Quindi hanno preso una settimana per riposarsi. Hanno preso una settimana di tempo, come al solito. Il complottone. Allora per i diversamente giovani ricordo che c'è sempre la possibilità di schierare la primavera. E con questi signori qua noi già una volta tanti anni fa abbiamo schierato la primavera nella partita decisiva. E loro furono così sportivi come da tradizione da vincere 9 a 1. Unico gol segnato da Mazzola. Sandrino Mazzola. Signori, secondo voi vi ha convinto Mauro Meazza con questo complottone? Cioè, secondo gli interisti la Juve ha preso una settimana di tempo perché erano in scarsa forma. Beh, sì, ma poi rinviano anche tutto, cioè la Inter-Samp, ma giocatela con comodo a settembre, a ottobre, quando sarà, insomma. Io mi sento convinto. Quindi la Juve, sì. Allora, io è incredibile che io, Alessandro Milan, sia qui a difendere la Juve, è una roba che non mi è mai successa, voglio chiedere per questo lumi a Mario Adinolfi. Marione, ti prego, aiutami tu. Ma non ho capito perché se c'è tutto questa fatica a capire la logica, diciamo. La logica. Se volevamo fare la partita a porte chiuse con lo spot per raccontare l'Italia desertificata, abbiamo come sempre la Juve ha pensato al bene del paese. Beh, adesso non allora io ti stavo difendendo, adesso la però Juve, qui la mi Juve fai è proprio una democrazia cristiana, è quella roba che sta lì da sempre e pensa al bene del paese. Allora io dico che quello che è buono per la Juve è cattivo per il paese. È cattivo per il paese. Evidente. Sì, no, ma io non capisco veramente, mi tocca difendere la Juve, una cosa che non mi capitava da 49 anni. Quando esci dalle tue fumisterie alcoliche non so dire, capisci, no, che esiste, no, anche la logica. Ma tu insomma, che sei uno juventino impenitente, hai capito? Il vostro pubblico che mi ascolta a quest'ora dovrebbe aver capito questa fai roba. Fai il bravo. Nonostante i caffè corretti che prendono al bar con la Sambuca. Fai il bravo. Tu hai capito esattamente da juventino. Allora, sicuramente l'avete fatto per non perdere 5 milioni di euro di incasso. E su questo si può fare un discorso. L'abbiamo fatto. Anteponete il denaro. Il bene del paese. Non far vedere un'Italia desertificata e uccisa nel suo bene, diciamo, popolare più prezioso e pagandone pegno, perché ovviamente avremmo schiantato la squadretta dei cartonati, quindi insomma sarebbe stato comunque un Meazza, reagisci, di qualcosa. Io li lascio parlare perché la loro sportività è evidente, emerge semplicemente anche da questo, cioè manco riescono a contare i titoli che c'hanno e che non c'hanno, cioè che cosa puoi pretendere? Gente che ha problemi con l'aritmetica, che cosa vuoi pretendere? Ludogorets, è vero. Forse chiuse, sono andati sotto con Ludogorets. Pensa che io goduto per due minuti poi dopo. Però Marione, tu ha segnato il Ludogorets, sì, a porte chiuse. Avremmo accesso, ma che giocavano con le mascherine, credo, giocavano con le mascherine. Abbiamo fatto scendere i bulgari con le mascherine e i guanti di lattice, dai, hai capito, Marione, hai capito che cosa, dai, Juventino, visto che te ne dicono tante, cosa vi imputano esattamente di aver rinviato perché eravate fuori non forma, perché stavamo per esonerare Sarri. La Juve non esonera un allenatore da 70 anni, quindi insomma non ho capito qual è l'accusa. Niente, non si è capito, non si è capito. Quindi giocheresti lunedì 9 marzo come si prospetta adesso, ma per far vedere quando vi pare, non quando, è problema, quando, insomma, quando vi pare, no, se no giocavate ieri. Se, no, quando vi pare. Per quanto mi riguarda, adesso faccio il tifoso, non faccio più il difensore d'ufficio. Con questi, quando gli pare, alla romana, vieni tanto sotto quando te pare, vieni. Il risultato è già scritto, per cui vabbè, la vera notizia è che Mario Adinolfi credo sia uscito dallo 0%. Ieri ci sono state 1, le elezioni 3% a Roma, 1,3% al popolo della famiglia. Ieri a Roma, questa è la cosa, diciamo, che più mi rende perplesso nella vita. 1,3%. Si avvicina a l'unico Renzi, partito non di sinistra che raddoppia i voti rispetto alle politiche. È incredibile. Ci sarà una ragione. Questo è il vero mistero, altro che Juve. No, gli stessi voti di Calenda che non si è mai contato e la metà di quelli di Star. Fai il bravo che ha votato in 15, però l'1,3% di 15 che sono andati a votare. Più no, o meno. No, di 40.000 romani, poveri, che hanno fatto un grande sacrificio. Il 17% hanno votato, no? 18% di affluenza. Diciamo che era un po' un voto a porte chiuse, mi viene da dire. Esatto, era un po' a porte chiuse. A porte chiuse. I 40.000 sono quelli che entrano allo stadium quando giochiamo e vi facciamo un mazzo così. Va bene. Con Lione come va a finire? Ci vuoi fare un bel pronostico? Ritorno? Ricordiamo, beh, Lione, abbiamo Juve, rimpaltato squadre molto più, no? Quindi finirà un 4-0. La vedo facile, diciamo, non vedo difficoltà. Registrate tutto, Miriam Lucchetti regista, la vedo facile contro Lione, va bene, è tutto agli atti, grazie Mario Adinolfi. Ciao. È tutto agli atti, la vedo facile. Mauro, non è che ci hai convinto tantissimo. A Mario Adinolfi non l'hai convinto per niente. A Leonardo l'hai convinto. Va bene, sì, a me no. D'altra parte è chiaro che voi siete ancora schiavi dei poteri forti e sì, siete succubi dei poteri forti. Quindi basta la voce del padrone a farvi di nuovo orientare in quella direzione. Mi piace lì. L'idea a me che dispiace. Che però la Juventus è così. Operi nell'esclusivo interesse del paese. È vero. Come quando ci sono le cause di separazione, si scrive nell'esclusivo interesse del minore, in questo caso del paese. Grande Milan, Manera Cialtrone, firmato una gobba. Una tifosa, niente. Adesso mi sono. Cioè, è la cosa incredibile che i tifosi della Juve mi sono vicini. Io non so come scrollarmi adesso di dosso dopo questa. Ma d'altra parte, tu hai fatto questo outing per cui hai deciso di supportare, ripeto, i poteri forti, il palazzo, e allora a questo punto ne pagherai le conseguenze. Io, con il vostro permesso, dopo l'interruzione per la viabilità, andrei a preparare un programma. Sì. Come dire. Ah, pensavo a preparare tra boccette di Elisir del dottor Meazza. Se sono arrivati messaggi per le boccette dell'Elisir, no, se no, volete però l'Elisir del dottor Meazza, scriveteci qui al 349-238-6666. Come ci ricorda Leonardo Madera, serve un po' tutto, per esempio, non so, qualsiasi cosa, da problemi di vista e anche invece poi se per esempio i mezzi pubblici arrivano in ritardo. Voi bevete un bicchierino e arriva puntuale l'autobus, il filobus. Mi piaceva molto l'efficacia se uno nuota male in piscina. Mi sembrava una di quelle così, di quegli effetti, magari non proprio desiderati, però comunque importanti. Torniamo per un attimo seri nel ringraziare Mauro Meazza. Guardate qua la notizia che è battuta dall'agenzia, che Miriam Lucchetti opportunamente mi manda. Tutti i componenti della giunta regionale della Lombardia, dopo che il presidente Fontana si è messo la mascherina, dovranno sottoporsi al test dopo che un loro collega, non diciamo il nome, è stato trovato positivo. Lo rende noto l'assessore Gallera, assessore al welfare, insieme al presidente della regione. Ma secondo me, sai che se in tutti gli ambienti di lavoro si facesse il tampone, si troverebbe comunque qualche positivo. Anche qui probabilmente. Sì, probabilmente anche tra noi. Forse anche Mauro Meazza, che oggi agli occhi un po' rossi. Vabbè, andiamo al traffico. Grazie Mauro, non ci hai convinto. Alcuni ascoltatori invece alcuni sono stati convinti da te, altri no, ma insomma, vabbè, è il destino, è il destino. Ecco. Uno, nessuno, 100 Milan. beati voi che ci avete gli amanti e le amanti sul posto di lavoro. Io sono qui in piattaforma, c'ho Ugo il gruista che sarà 120 kg tutto peloso come un orango, e Pierillo il motorista che questo è magro magro ma fa schifo, sdentato, brutto. Mamma mia, che invidia. Grazie, no, beh, non, grazie il mitico Ugo gruista che dalla piattaforma ci ascolta. Piattaforma dove poi? Vorrei anche sapere. Potrebbe dircelo meglio da dove sta. Guarda qua, comunque, ciao Manera, sei libero di comportarti come più ti piace, ma oggettivamente quando sei in studio sei più empatico, più partecipe. Invece quando ti investagli le tue prestazioni si involvono, il programma è più freddo, distaccato, secondo me dovrebbero tagliarti il 30% di stipendio. Domani comunque trasmetto da casa. Ecco. E anche mercoledì. Comunichiamo al direttore del personale, da domani, come suggerisce l'ascoltatore Giovanni, 30% in meno di stipendio. Che di questi tempi hai bisogno di una bella spazzolata di denaro. Ma io lo faccio nell'esclusivo interesse del paese. Va bene, giusto. Allora, 10:48 minuti, è il momento. Oh, finalmente è venuto a ritrovarci il mitico Carlo Nero, imprenditore in arte Neronello. Bravo Neronello, buongiorno. Amico dei bambini. Yup. Oh. Tra l'altro è un periodo in cui molti bambini sono a casa da scuola e le mie attività sono più richieste. Oh, che bello. Vado a intrattenere i bambini nelle case ormai infestate dal coronavirus. Anche se prima, lei sa, di fare il clown avevo un'impresa di pompe funebri, vero. Poi però le persone hanno iniziato a chiedere funerali con prezzi sempre più bassi, anche se noi facevamo delle bare personalizzate. Ad esempio sulla bara di un ceramista abbiamo scritto "purtroppo è crepata". Sulla bara di un logopedista abbiamo scritto "ci ha lasciati senza parole". E la bara di un meccanico l'abbiamo fatta a forma di motore e le candele sostituiamo ogni 20.000 chilometri. Candele. Bene, dei motti di spirito. Sì. Non tutti la prendevano bene, i parenti. E quindi mi sono reinventato clown per bambini, il clown Neronello. Esco da casa mia già truccato e appena arrivo nella casa dove la festa faccio subito un indovinello per far divertire i bimbi. Per esempio, bimbi, cosa dice un pomodoro accusato di frode fiscale? Dice, è polpa del mio commercialista. E lei ride da solo, ovviamente, quando fa queste battute. No? I bambini non gradiscono. No, l'ultima infatti. Volta uno di loro voleva aggredirmi, ha preso lo schiacciapatate dal cassetto e mi ha colpito forte allo sterno. Allora gli ho detto, bambino, vuoi fare una cosa davvero divertente? Sì. Vai in cucina, accendi i fornelli. No. E quando la fiamma è alta, spegnila con l'alcol. No! Non ha detto questa cosa lei a un bambino. Certo neanche che sì. Neanche a un adulto, per quel maledetto cane figlio del demonio. Ma no. È arrivata la madre, ha detto Neronello lascia stare i bambini, io sono già tutto a un fuoco. Allora ci siamo appartati nella sua camera e lei ha voluto che io tenessi le mie scarpe rosse da clown perché le trovava molto erotiche, come darle torto. Ma ormai stava scadendo il mio tempo, i bimbi mi reclamavano, così sono sceso e ho raccontato una delle mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta un villaggio dove viveva un'anziana molto saggia, rispettata da tutta la comunità. I giovani le chiedevano consiglio per farsi strada nel mondo, gli innamorati si rivolgevano a lei per conquistare il loro amore. Lei rispondeva sempre e di tanto in tanto viaggiava attraverso le montagne per portare il suo sapere. Un giorno, durante uno dei suoi viaggi, la donna si imbatté in un albero che brillava di un'intensa luce verde. Avvicinandosi, notò una pietra preziosa incastonata tra i rami, la raccolse e poi riprese il suo cammino. Il giorno dopo, lungo la strada, incontrò un giovane viaggiatore. «Qual è il tuo nome, giovane viaggiatore?» chiese l'anziana saggia. «Ortodonzio», rispose il ragazzo, che si chiamava così per via della sua dentatura complessa. «Tengo lo stomaco vuoto, non avresti qualcosa da mangiare?» La donna, buona e generosa, aprì la sua borsa per condividere il suo pasto e la luce della pietra abbagliò il giovane. Ortodonzio sorrise, ma al primo morso iniziò a tossire, poi tossì più forte, poi ancora più forte, fino a rantolare per terra. L'anziana saggia lasciò cadere tutto quello che aveva in mano e si lanciò verso Ortodonzio per salvarlo da quel boccone che gli era andato di traverso. ma Ortodonzio le fece lo sgambetto, la donna inciampò, batté la testa contro un albero e svenne, mentre lui, che aveva escogitato il suo finto soffocamento per rubare la pietra, scappò con la borsa e con la pietra preziosa e poi visse, felice, ricco e contento. Bambini, qual è la morale della favola? Se siete generosi, dividete il vostro pranzo e aiutate gli altri, sbatterete la testa contro un albero e ci sono ottime probabilità che veniate divorati dai lupi. Se invece siete pronti a fare una bella truffa agli anziani, metterete da parte un bel gruzzoletto e non avrete bisogno di lavorare. Questa è la morale della favola, cari bambini. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Nerunello, l'amico dei bambini. Molto amico, devo dire, molto amico, come dimostra tutte le volte. Do dei consigli ai bambini per vivere bene, felici, sereni, tramite le mie favole. E va bene, soprattutto sì, mi hanno mandato questa notizia sulla birra Corona che ha perso un casino di soldi. Ragazzi, questo per dirvi a che livello di impazzimento siamo arrivati. Sapete che c'è la birra Corona, a questo punto bisogna dirlo per fare un po' di pubblicità, per far risalire le vendite, che ha avuto un crollo delle vendite perché si chiama birra Corona. E poi voi mi insultate scrivendomi sulla pagina Facebook quando io dico: ma insomma, forse anche sta storia delle mascherine, state esagerando. Ieri ero nelle librerie di Milano, potevo pattinare perché ero da solo in grandi librerie, e la gente diceva: beh, fa bene la gente stare a casa, tu chi sei, come ti permetti? Meditate su questo. La birra Corona ha avuto un crollo delle vendite. Meditate sul livello medio intellettivo, intellettuale, cognitivo delle persone. Ecco. Ma sì, ma si spiega anche perché nella Corona si mette il pezzettino di limone. Metti che il limone te l'ha messo un barista col coronavirus, non è che tu la stappi e la bevi, c'è sempre il pezzettino di limone. No, dai, veramente è incredibile questa cosa. Comunque, sviluppi sulla vicenda di Roma, perché si dice: perché a Roma Pomezia hanno chiuso il liceo Pascal? Perché è stato scoperto un primo poliziotto positivo di Roma e questo poliziotto è il padre dello studente che va al liceo Pascal. Mentre invece in Lombardia hanno trovato un assessore regionale positivo. Si tratta dell'assessore, aspetta che uno mi ha detto: non dite il nome perché siete piegati a 90 davanti alla politica. Cioè, la gente veramente è malata di mente, la gente che scrive così. L'assessore positivo è l'assessore Mattinzoli, ecco, siamo piegati a 90. Adesso mi dirà che abbiamo detto il nome solo grazie al suo intervento, che ci ha richiamato con la schiena dritta a rispondere, l'assessore Mattinzoli, assessore alla Regione Lombardia, e quindi tutta la giunta dovrà fare adesso il test. Leonardo, secondo te quando ne usciremo e come? Io credo ne usciremo? Verso luglio più o meno. Realisticamente è così. Ecco. C'è un aspetto positivo in tutto questo, che siccome non si andrà più al lavoro, si tornerà a non tradire più i legittimi consorti, come abbiamo detto prima. Perché tutti quelli che lavorano hanno un amante, tutti. Bene. Allegria, è lunedì, ci troviamo domani. Uno, nessuno, 100.000.